Il documentario Appennino di Emiliano Dante all'Apollo 11 a Roma, giovedì 18 maggio. Siamo con Elio Ugenti per parlare del Roma Cinema Docca, la seconda edizione, nella giornata di sabato 19 maggio al Cineclub de Tours. Elio, benvenuto. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, raccontiamo tutto dall'inizio per chi non conoscesse cos'è Roma Cinema Docca. Roma Cinema Doc è un'esperienza nata ormai 2 anni fa che diciamo si svolge su un doppio livello. Il primo è quello delle edizioni mensili che si svolgono online, quindi registi da tutto il mondo che ci mandano i loro cortometraggi, i loro documentari che vengono valutati da una giuria di qualità. I vincitori di ogni edizione mensile accedono poi a questa edizione annuale che si svolge per la seconda volta al Cineclub de Tours. Quindi diciamo che questo sabato al Cineclub de Tours ci sarà il meglio della produzione di cortometraggi e documentari ricevuti nel corso di un'intera annata dal Roma Cinema Doc. Quindi direi cortometraggi e documentari assolutamente di altissimo livello, sia italiani che internazionali. Anche i documentari sono dei corti? I documentari non sono dei corti, possono avere una durata che arriva fino a 60 minuti, quindi diciamo possiamo definirli dei mediometraggi, mentre tutte le opere di fiction che vanno da diciamo i classici documentari di fiction a opere più sperimentali, cortometraggi d'animazione, hanno durate che vanno dai 40 secondi, perché abbiamo anche la sezione short short, che appunto è sotto il minuto, fino a una durata massima di 30 minuti. Senti, quante sono le opere presenti in questa edizione, in questa seconda edizione? In questa seconda edizione abbiamo selezionato 18 opere. Questo ci dà la possibilità, dato che il festival si svolge nell'arco di una sola giornata, in realtà si parte alle 17 e si finisce intorno alle 23, 23:30. Questo ci dà la possibilità di non, come dire, intasare troppo il programma con le proiezioni, scegliere soltanto, diciamo, le opere che riteniamo estremamente meritevoli e poter trasformare, diciamo, l'evento del Roma Cinema Doc in un momento che non è soltanto di proiezione dei film, ma anche e soprattutto un momento di confronto con gli autori che interverranno e avranno la possibilità di discutere tra di noi, ma anche e soprattutto, che è una cosa importantissima per noi, di fare networking tra di loro. Quindi speriamo anche che giovani registi, sceneggiatori, montatori possano anche incontrarsi nell'ambito del Roma Cinema Doc e magari far nascere dei progetti comuni. Quella è la nostra speranza più grande e sarebbe per noi il successo più grande, Le categorie sono due, quindi cortometraggi e documentari? Ok. ecco. Allora, le categorie sono numerose, nel senso che nel corso dell'anno appunto abbiamo queste categorie che ospitano i cortometraggi più brevi, quelli che ospitano i cortometraggi realizzati dalle scuole di cinema, opere di fiction italiane, opere di fiction internazionale, documentari italiani, documentari internazionali e così via. Ma nell'edizione annuale una delle caratteristiche del Roma Cinema Doc è di mettere tutte queste opere sullo stesso piano e farle competere per un unico premio in palio. Questo nasce proprio da una progettualità che è quella di comunque pensare il cinema oggi come dire, un campo di produzione dove le categorie, le differenziazioni e i generi si assottigliano sempre di più. Quindi per noi è importante che il corto di finzione, il documentario siano comunque delle opere cinematografiche a tutto tondo e che quindi possano competere anche sullo stesso livello. Ricordo, Sì. fattore non da poco, che al vincitore, oltre agli onori della serata, andrà anche un premio in denaro di 500 euro, che ovviamente il più delle volte è un premio che viene reinvestito per una nuova produzione. Quindi, come dire, cerchiamo di dare anche un piccolo contributo per quelle che sono le nostre forze per promuovere anche i nuovi progetti degli autori che vincono il nostro festival. Sempre a livello di promozione, chi passa per il Roma Cinema Doc ha poi qualche speranza di distribuzione anche in base al vostro intervento? Allora, la nostra idea è proprio quella quella di coinvolgere attraverso un lavoro con la stampa e soprattutto un lavoro di social networking, di coinvolgere quanto più possibile produzioni e distribuzioni ad intervenire. In Italia esistono delle realtà davvero interessanti con le quali mi è capitato di recente di confrontarmi, che si occupano esclusivamente della distribuzione dei cortometraggi. Ovviamente qui andrebbero fatti dei distinguo, nel senso che in Italia parlare di una vera e propria distribuzione dei cortometraggi è corretto fino a un certo punto, e il più delle volte si tratta di circuitazione, ma è fondamentale che comunque i cortometraggi prodotti possano trovare quanta più visibilità possibile. Quindi sicuramente il Roma Cinema Doc è e deve essere sempre di più un momento di confronto anche con produzioni e distribuzioni che si occupano di cortometraggi. E comunque, secondo me e secondo tutta l'organizzazione di questo festival, è una forma di espressione che può trovare anche una sua autonomia e una sua, come dire, artisticità, indipendentemente dal fatto che poi molto spesso è un trampolino di lancio per i giovani autori per produzioni più lunghe, sì, film più impegnativi. Elio, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora il nostro sito è romacinemadoc.it e sul sito potete trovare tutte le informazioni sul festival, tutti i titoli, gli autori dei cortometraggi in concorso e tutte le informazioni relative alla giornata di sabato 19 maggio, che ricordo inizia alle ore 17 al Cineclub de Tour, questo posto incredibile, storico e che ha ospitato tanta produzione SE negli ultimi anni, quindi è un posto con il quale noi contiamo di avere una collaborazione sempre maggiore. Iniziamo alle 17, siamo lì fino alle 23 e se verrete a trovarci intorno alle 19 avremo il piacere di offrirvi anche un aperitivo, che anche lì vuole essere anche un momento di discussione tra il pubblico e tra il pubblico e gli autori che saranno presenti. Allora, un saluto e un ringraziamento ad Elio Ugenti per Roma Cinema Doc, seconda edizione al Cineclub de Tour a Roma il 19 maggio. Elio, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, crepi il lupo e ci vediamo il 19. Ciao. Ciao. Con noi Davide Maiocchi, regista del documentario No Pet, Liberi e Randagi, che sarà in esclusiva al Cinema Spazio Oberdan a Milano dal 22 al 31 maggio. Davide, benvenuto. Ciao, grazie. Lo raccontiamo brevemente? Sì, ci sono tantissime cose da dire. Iniziamo magari a dire da dove viene la proposta. Sì. Io sono un attivista per la liberazione animale e un volontario operatore di canile da sempre, si può dire, da tanti anni. A un certo punto nel mio percorso ho avuto la voglia e anche l'esigenza di provare a utilizzare una rappresentazione cinematografica per affrontare un tema che è quello del randagismo, da un punto di vista diverso. E qual è questo punto di vista? Sì, qua ci sono da dire tante cose, okay. Nel senso che normalmente siamo tutti abituati ad affrontare il tema del randagismo per come lo affrontano poi le istituzioni, no? Quindi una piaga sociale, si parla di lotta al randagismo e ne nascono delle vere e proprie, insomma, cacce al randagio, perché la soluzione che socialmente si pensa sia l'unica possibile praticabile per i cani è di averli o nei canili o nelle proprie famiglie. Quello che io volevo mettere in discussione è proprio questa insomma attitudine, questo atteggiamento che non contempla la possibilità che alcuni cani possano vivere sul territorio. L'ho fatto, insomma lo sostengo in base a dei miei studi, delle mie ricerche, soprattutto delle mie esperienze, quindi da un punto di vista, diciamo, proprio di campo ho potuto vedere delle situazioni positive, delle bellissime storie di integrazione fra cani e persone. Lo faccio anche da un punto di vista politico, nel senso che c'è dentro una critica, affrontando questo discorso, a una società umana che non dà spazio agli altri animali. Mm-hmm. E insomma, da qua cerco di sviluppare tutta una serie di questioni.